Adesso invitiamo la professoressa Najib a parlarci di Gesù nel mistico musulmano Ibn Arabi. Si è dedicata particolarmente allo studio di Ibn Arabi e ne parlerà con grande simpatia. E al tempo stesso devo presentare la professoressa, che è professoressa all'Istituto di Glottologia dell'Università di Padova, è di origine libanese ma attualmente italiana, nipote del famoso Monsignor Sfeir, che è stato tanti anni professore di arabo all'Università di Roma. Professoressa, la parola a lei. Io invece insegno lingua e letteratura araba, titolare di lingua e letteratura araba a Padova, e sono dialettologa. E vorrei dire una cosa, poc'anzi padre Giulio ha cominciato con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, invece io comincio con Bismillah wal-Ibn wal-Ruh al-Idus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù nel mistico e nell'arabo. Ringrazio l'Istituto di Scienze Religiose e padre Giulio Basetti Sani per l'invito e la calorosa accoglienza. Per questa occasione ho avuto l'immenso piacere di leggere e approfondire l'opera tanto nota e conosciuta di Muhyiddin ibn al-Arabi, Fussus al-Hikam. Secondo l'autore, i concetti di Fussus al-Hikam gli erano stati ispirati dal profeta Muhammad stesso, mentre al-Futuhat al-Makkiyya, le rivelazioni meccane, gli sarebbero state dettate da Dio stesso attraverso un angelo della rivelazione. L'opera Fussus al-Hikam ha avuto molta diffusione nella sua traduzione francese, nota con il titolo La Sagesse des Prophètes. Il titolo non è che una perifrase ormai consacrata dall'uso. È composta di 27 capitoli, uno dei quali intitolato Fasl Hikmat Nabawiyya fi Kalimat Risawiyya, capitolo della saggezza profetica nella parola di Gesù. Questo capitolo descrive poco il modo nel quale Gesù fu concepito, poi esprime la più alta considerazione di Ibn al-Arabi per Gesù, chiamato dall'autore il sigillo dei santi, Khatim al-Awliya. Tutto questo attira la nostra attenzione, ci richiama a riflettere e approfondire il pensiero di Ibn al-Arabi nella figura di Gesù. Muhyiddin Ibn al-Arabi era nato a Murcia, nel sud della Spagna, nel 560-1165, in una famiglia di origine araba e di tradizione sufi. L'Andalusia faceva allora parte dell'impero Almohad, al vertice della sua potenza. La dottrina ufficiale dell'impero era lo stretto malichismo, l'ash'arismo stretto di Ibn Tumar, morto nel 524-1130, poco tollerante verso la scienza razionale come la filosofia di Ibn Tufail, morto nel 578-1182 a Marrakesh, che regnava e dominava in quel tempo. Ibn Tufail aveva raccomandato al califfato Almohad Abu Yaqub Yusuf, il giovane Ibn Rushd, che sarebbe Averroè, nato nel 520-1126. Ibn al-Arabi aveva circa 18 anni quando morì Ibn Tufayl. Quando morì Ibn Rushd aveva 35 anni e assistette ai funerali di Amarakesh nel 1195-1198. Studiò a Lisbona, a Siviglia e a Cordova, dove incontrò Ibn Rushd. Finiti gli studi, andò errando per 30 anni, affermò che durante questo periodo fu ispirato attraverso estasi e visioni. Passò dalla Tunisia a Marrakesh nel 590-1193, nel 598-1201 lasciò il Maghreb per fare il pellegrinaggio alla Mecca e fuggire anche all'integralismo al-Muhad. Passò dall'Egitto, dove rischiò di essere assassinato come zindiq, vuol dire eretico, miscredente. Partì per Gerusalemme, poi per la Mecca, dove rimase per alcun tempo. Lì ricevette le rivelazioni riportate nel suo libro Al-Futuhat al-Makkiyah. Passò da Aleppo a Mosul, a Baghdad, che visitò per ben due volte nel 601-1204 e nel 608-1211, e si visto definitivamente a Damasco, dove morì nel 638-1240. Fu sepolto nella tomba privata del celebre Qadi Muhyiddin Ben Zaki nel quartiere As-Salhiya, ai piedi del monte Qasyun, con i suoi due figli, di cui uno era un celebre poeta, e con Abdul Qadir al-Gilani, il fondatore della Qadiriyya. Nella sua formazione ha subito l'influenza della filosofia ellenistica, di ispirazione platonica, aristotelica, stoica e neopitagorica. Come lo definiva Massignon, sincretismo filosofico orientale. La sua metafisica e la sua teodicea sono dominati dal platonismo e più esattamente dal neoplatonismo di Plotino. Tale filosofia predispone alla mistica. Non è favorevole alla mistica soprannaturale, ma all'emanazione necessaria dall'essere primo, ma alla mistica di tipo intellettuale che conduce facilmente alla gnosi e all'esoterismo. Mentre la mistica soprannaturale si basa sulla creazione gratuita, invece dell'emanatismo necessario e di una grazia, puro dono di Dio, offerta ad ogni credente, alla quale si risponde con l'amore, l'umiltà e la preghiera. Gli ambienti di Baghdad e tutto l'est dell'impero erano sotto l'influenza degli iraniani, convertiti all'Islam, senza però che avessero abbandonato il loro culto e la loro cultura mazdeana. Questa influenza invitava al simbolismo, allo spiritualismo e alla mistica, ma comportava il pericolo dell'agnosi, dell'irrealismo e del dualismo, luce e tenebre, bene e male, eccetera. La religione sunnita era la religione ufficiale dell'impero. Siccome lo sciismo era proibito allora, quest'ultimo si rifugiò nell'esoterismo più o meno segreto. Ibn al-Arabi è l'unico filosofo musulmano che abbia saputo raccogliere da una zona inesplorata una tale ricchezza. Le sue opere vanno dal semplice opuscolo composto di poche pagine al trattato, per esempio il Tafsir, che è di 64 volumi, e l'idea principale che predomina in tutte le sue opere è l'esoterismo che canta l'amore divino. Dio si manifesta attraverso gli esseri e le cose per mezzo della simpatia. Così il cuore del Sufi è descritto dall'autore come pervaso dall'amore divino, come penetrato dall'idea dell'unità trascendente dell'essere. Si deve riconoscere che Ibn al-Arabi ha contribuito grandemente al progresso della cristologia coranica, riprendendo 4 secoli dopo la dottrina di al-Tirmidhi, che ha considerato Gesù come il sigillo della santità universale al di là della storia ineguagliabile. Perciò Gesù può essere considerato come il termine che chiude l'epoca dei grandi mistici musulmani. La sua esperienza spirituale è una unica e si muove attraverso l'universo intero. È evidente che per trattare tale argomento così profondo e vastissimo bisognerebbe avere molto più tempo a disposizione e studiare non soltanto i numerosi scritti dell'arabo, riconosciuto come uno dei maggiori scrittori sufi dell'Islam, al punto tale che era soprannominato l'uomo di religione il più grande, cioè Ash-Shaykh al-Akbar, ma conoscere pure i suoi discepoli e commentatori che hanno scritto su di lui, soprattutto in arabo, in persiano. Quindi la mia relazione si limiterà a certi passaggi relativi da Qusus al-Hikam e dal Kitab Futuhat al-Makkiyya. La tradizione musulmana identifica lo Spirito Santo con l'Arcangelo Gabriele. Sarebbe quindi Gabriele che ha dato Gesù a Maria. Il testo del Corano, alla Sura 19 di Maryam, dice: noi, è Dio che parla là, le inviamo il nostro spirito, il quale prese per essa la forma di un uomo, eccetera. E le disse: io sono il messaggero del tuo Signore per darti in dono un fanciullo puro. Da questo testo coranico Ibn al-Arabi conclude: Gesù fu formato, quindi, secondo la forma dell'angelo, apparendo sotto l'apparenza umana. Riunì così in sé le due forme, che erano quella di suo padre, che era l'angelo, e quella umana di sua madre, Maria. Quindi egli è spirito sotto il rapporto dell'essenza ed è uomo sotto il rapporto della sua apparenza nella forma umana. All'esterno era un uomo, all'interno era un angelo. Come uomo è apparso sotto la forma di Adamo. Per quanto riguarda la sua formazione, poiché non ha avuto padre umano e non ha avuto una formazione simile a quella degli altri fanciulli, vale a dire al resto della discendenza di Adamo. E egli non dimorò nel seno materno il tempo normale, ma il suo passaggio all'esistenza fu simile alla risurrezione dei morti nell'ultimo giorno, vale a dire in un lasso di tempo più lungo. Sembra che Ibn al-Arabi non tenga conto del racconto evangelico e forse ha attinto questa strana tradizione dei Vangeli apocrifi. Seguendo altri teologi musulmani, anche Ibn al-Arabi insegna che gli esseri umani furono creati in 4 maniere differenti. Infatti, la creazione di Adamo non avvenne nella stessa maniera di quella di Eva. Quella di Eva non fu per nulla simile a quella delle altre creature. Infine, quella di Gesù è differente dai casi sopracitati. Perciò, perché Adamo fu creato di argilla, Eva fu creata dalla costola di Adamo, mentre Gesù fu creato dal tocco dello Spirito. Quando Dio disse "Kun", sarebbe sì. Perciò Dio volle fare un segno prodigioso per confondere i naturalisti. Così Gesù si è manifestato sotto forma di uomo perfetto. Egli sa di essere vicario di Dio e l'uomo perfetto. L'uomo perfetto è una rappresentazione in scala ridotta della realtà. Egli è il microcosmo in cui si riflettono tutti gli attributi perfetti del microcosmo, come la realtà di Muhammad è stata il principio creativo dell'universo, così l'uomo perfetto ne è stato la causa, essendo egli un'epifania del desiderio che Dio ha di essere conosciuto. Solo l'uomo perfetto quindi conosce Dio, ama Dio e ne rimane, Solo per l'uomo è stato fatto il mondo. Il principio creativo, animatore e razionale dell'universo, cioè l'intelletto primo, è la realtà, idea di Muhammad, al-haqiqa al-muhammadiyya, detta anche realtà delle realtà, haqiqat al-haqa'iq. Questo principio ha la sua manifestazione più completa nell'uomo, al-insan al-kamil. L'origine del concetto di uomo perfetto deve ricercarsi nelle apocalittiche semitiche presso i profeti di Israele, nel tema del servo di Yahweh, del giusto sofferente, la cui riabilitazione finale manifesterà alla fine dei tempi il segreto della gloria del giusto che Dio ha nascosto agli angeli, mentre nell'Islam è il testimone dell'Eterno, Shaykh al-Qidah. La nozione semitica dell'uomo perfetto è strettamente legata allo spirito profetico. Nell'arabo considera Gesù come il tipo della creatura santificata che partecipa alla potenza creatrice di Dio. Ci dice che colui la cui malattia è Gesù non saprebbe essere triste, perché Gesù è a sua volta il creatore che vivifica e la creatura che è vivita. Nella qualità di uomo perfetto e per la sua santità universale, per cui è il sigillo della santità, come già aveva insegnato Tirmidhi, il santo è superiore al profeta. Sì, il sigillo dei santi è apostolo, è un apostolo, il quale non avrà nessun uguale a lui nel mondo. Egli è lo spirito ed è il figlio dello spirito e della madre Maria. E questo è un rango che nessuno potrà mai raggiungere. Discenderà in mezzo a noi per arbitrare come giudici, ma non secondo i principi della sua propria legge, sarebbe il Vangelo, che sarà cessato. Ucciderà il corpo e confonderà l'iniquità. Solo Dio sarà la sua guida. Il Corano aveva presentato Gesù come il segno per l'ora. La funzione di giudice al giudizio finale appartiene al perfetto uomo, secondo l'apocalittica semitica. Chiaramente il Corano annuncia che Gesù nel di là della risurrezione sarà testimone contro di loro, sarebbero gli ebrei. Hassan al-Basri aveva dichiarato: la Mahdi illa Isa, non vi è Mahdi, sarebbe uno che vi fa vedere le strade, diciamo, vi rivela le cose, cioè che guida, se non Gesù. La scelta di Gesù come giudice non è dovuta alla sua qualifica di profeta, ma al suo esempio di santità mistica. Massignon osservava che questa teoria non è dovuta ad infiltrazioni cristiane, ma proviene dalla meditazione dei testi del Corano, sarebbe la Sura Quinta, versetto 108 e 120, per la concezione dell'uomo perfetto. E l'onore di Muhammad presso il suo Signore continua Ibn al-Arab di avere degli inviati nella sua comunità e di avere scelto fra questi inviati colui che ha le relazioni di parentela le più lontane dagli uomini e che fu mezzo uomo e mezzo spirito purificato angelico, perché fu Gabriele che sotto forma di uomo lo accordò a Maria. Dio lo ha innalzato sino a sé per farlo poi ridiscendere alla fine dei tempi come santo e sigillo della santità, applicando la giustizia secondo la legge di Muhammad nella sua comunità. L'arabo riconosce un miracolo operato da Gesù in lui. È lui, Gesù, che mi ha convertito alla penitenza ed ha richiesto per me la perseveranza nella religione in questa e nell'altra vita. Mi ha chiamato il beneamato, mi ha ordinato di praticare l'ascesi e la povertà. Questa confessione mi sembra quanto mai interessante. La santità di Gesù si rivela nel Corano, dove si riportano alcuni miracoli a lui attribuiti, sarebbe a Gesù, il quale dice: io vi porto un segno dal vostro Signore. Ecco che io vi creerò con l'argilla una figura di uccello. Poi vi soffierò sopra e diventerà un uccello vivo, col permesso di Dio. Guarirò anche, con il permesso di Dio, il cieco nato ed il lebbroso e resusciterò i morti, eccetera. E nell'arabo spiega: a Gesù fu data la scienza di questo soffio divino e delle sue relazioni. È così che Gesù soffiava nelle forme seppellite nei cimiteri o nelle forme dell'uccello fatto d'argillo, e l'uccello prendeva la vita. E dal soffio del misericordioso che proviene la scienza di Gesù. E così che egli vivifica i morti mediante il suo soffio, raggiungendo le forme sulle quali torna. L'espressione col permesso di Dio che incontriamo nel Corano quando si riferiscono i miracoli compiuti da Gesù si deve considerare una risposta agli ebrei che rinfacciavano a Gesù di operare miracoli nel nome di Belzebù. Agli ebrei della Mecca il Corano riconosce che era con il permesso di Dio che Gesù compiva i miracoli. L'insegnamento ordinario della dottrina coranica insiste sulla negazione della morte di Gesù, bensì su un testo polemico contro gli ebrei, i quali dichiaravano: noi abbiamo ucciso Gesù, il figlio di Maria, quindi non potevano riconoscerlo come loro Messia. Il testo risponde: no, voi non lo avete ucciso né crocifisso, bensì qualcuno fu reso ai vostri occhi simile a lui. Più volte Gesù aveva dichiarato che nessuno poteva togliergli la vita, ma solo lui la offriva quando fosse venuta la sua ora. Sulle origini di questa esegesi devota, comunemente adattata dall'Islam, Massignò osservava: questa esegesi, che si è infiltrata di molto presto verso il 150, sarebbe 767, nei tafsir sunniti, ci sembra d'origine sciita. Essa implica Gesù, retrospettivamente, la spiegazione trovata a Kufa per la morte violenta dei loro imam legittimi. In questo studio Massignon mostrava come, nonostante l'accettazione ufficiale da parte della teologia musulmana della negazione della crocifissione e morte di Gesù, non fossero mancati autorevoli teologi musulmani che ammettevano invece la realtà della crocifissione e della morte di Gesù. Il maggiore fra loro è Al-Ghazali, col suo fratello Al-Hamadani insieme ai Ikhwan al-Safa, sarebbe fratelli della sincerità. Ibn al-Arabi ha pure negato la crocifissione e morte di Gesù. Sembra ammettere che il sosio crocifisso sia stato Giuda, scrivendo: altri dicono che gli ebrei seguirono l'apostolo Giuda, il quale li condusse nella casa dove si trovava Gesù, là lo presero per crocifiggerlo. Ma l'universo fu allora nelle tenebre e Dio inviò degli angeli per separare Gesù dagli ebrei. Mise la somiglianza di Gesù in colui che lo aveva indicato loro, sarebbe Giuda. Quest'ultimo fu preso dagli ebrei che lo condussero per crocifiggerlo. Invano tentò di dire loro: sono stato io che ve l'ho indicato. Ma non fecero attenzione ai suoi discorsi, lo uccisero, lo crocifissero. Ibn al-Arabi crede di poter dare la ragione per la quale Gesù non poteva essere crocifisso. Sarebbe strano. Egli dice che Gesù fosse morto, lui che faceva risorgere vivi e morti dalla tomba, e per questo che è rimasto al riparo dai tentativi di un tale infortunio. Un altro argomento lo deduce dall'incontro di Muhammad con Gesù in cielo, dove vi è col corpo, quando il profeta Muhammad, al momento della sua ascensione notturna al cielo, entrò nel secondo cielo, vide Gesù col suo stesso corpo, perché fino ad ora non è morto, ma Dio lo aveva innalzato fino al cielo. Gli ha dato un luogo di soggiorno dove lo ha installato come giudice. Egli è ugualmente il nostro primo maestro per il quale siamo stati convertiti. Egli prende molta cura di noi e veglia in ogni momento su di noi. Ed io spero che sarà ancora tra i vivi al momento del suo ritorno, se Dio lo vuole. Che è fuori di dubbio che Gesù scenderà e sarà il nostro giudice secondo la legge di Muhammad. Dio gliela farà conoscere in quanto profeta, perché un profeta non riceve la legge che da colui che lo invia. Verrà l'angelo che gli comunicherà la legge che egli aveva comunicato a Muhammad, e forse o forse Dio glielo ispirerà per rivelazione indiretta. Giudicherà il permesso e la proibizione secondo gli stessi criteri che avrebbe seguito l'inviato di Dio se fosse stato presente. Al momento della sua discesa, gli sforzi personali dei giurisconsulti cesseranno. Infatti, egli non giudicherà secondo la sua propria legge, il Vangelo, che egli promulgò sotto il regime del proprio ministero apostolico e che gli era stabilito comunicare. In quanto profeta e apostolo, mediante la rivelazione divina, ma secondo la legge che era stata promulgata da Muhammad, di cui egli sarà il successore, forse sarà anche in comunicazione con l'animo di Muhammad, dal quale prenderà la legge che Dio aveva stabilito. Gesù, sotto questo rapporto, non sarà che un seguace, un compagno, sarà sotto questo stesso rapporto il sigillo dei profeti. È uno degli onori di Muhammad, di avere nella sua comunità Gesù, come sigillo dei profeti, profeta, apostolo, onorato e il migliore di questa comunità muhammadiana. Il giorno della risurrezione Gesù farà parte delle due riunioni. Egli sarà da una parte riunito al gruppo dei profeti e degli apostoli sotto la bandiera della profezia e dell'apostolato, alla testa dei membri della sua comunità. Dall'altra parte sarà contato con noi in quanto santo nel gruppo dei santi della nostra comunità sotto la bandiera di Muhammad e messo al rango più elevato di tutti i santi, da Adamo sino all'ultimo santo che sarà nel mondo. In conclusione, appare chiaro che Ibn al-Arabi non ha preso in considerazione i Vangeli né il Nuovo Testamento. Le nozioni su Gesù le ha attinte unicamente dalla tradizione musulmana, convinto forse che i Vangeli non erano storici e, secondo la teoria musulmana, falsificati. La tradizione musulmana riconosca Gesù come un essere trascendente, il sigillo della santità universale, il giudice del giudizio universale, che appartiene alla comunità musulmana come compagno e successore del profeta, e per questo gli riconosce il titolo che la teologia musulmana riserva solo a Muhammad, quello di sigillo della profezia. Si comprende allora tutta la devozione che Ibn al-Arabi ha avuto per Gesù Cristo. Grazie.